Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, è la seconda edizione di Italia in controluce condotta e coordinata da Daniele Biacchesi. Stiamo preparando come sempre un gran numero di inchieste, di reportage, di approfondimenti e di interviste. In particolare Raffaella Calandra sta realizzando in questi minuti un viaggio nella Milano che corre alle amministrative sul tema centrale, secondo noi, della lotta alla mafia e sul tema della legalità in vista di Expo 2015. Ascolterete la prossima settimana un servizio di Maria Luisa Pezzali sulle amministrative a Bologna. Il tema è quello della questione morale. Alessio Maurizia ha preparato un reportage sul referendum sull'acqua partendo da un'esperienza di una società mista, pubblico e privato, ad Arezzo, e molte altre cose sempre scritte in punta di penna. E come ogni venerdì cedo la linea a Piera Ceci per il punto sul mondo della scuola. Scuola in controluce. Martedì si comincia. Parliamo delle prove Invalsi, le temute, odiate prove Invalsi, quelle che fotografano lo stato di preparazione dei nostri studenti. E cominceranno martedì i ragazzi delle superiori, per loro quest'anno è un debutto. Mercoledì sarà poi invece la volta dei bambini della primaria, giovedì della secondaria di primo grado, cioè le medie. E come ogni anno le prove Invalsi vengono accompagnate da polemiche. Alcuni istituti minacciano di non svolgerle, molti insegnanti parlano di inutili telequiz e si rifiutano di correggere i compiti. Una bella grana per i presidi che sono obbligati a far svolgere le prove. Paola Vigoroso, dirigente scolastica del liceo Malpighi di Roma. Se no come fai a controllare il livello? Non esiste altro modo, penso. Quindi queste prove si debbono fare, è giusto che si facciano, però? Però, ecco, l'organizzazione, diciamo così, delle prove e la correzione non dovrebbe gravare sulle istituzioni scolastiche, perché è difficile da gestire. E chi dovrebbe farlo? Del resto se sono i professori stesso. Che fanno fare le prove... Ma se stesso! Vengono degli ispettori, le fanno fare, le già pronte, le raccolgono, le correggono. E come perché non dovrebbero farlo i professori? Come quando facciamo i test, per esempio, nei concorsi, che ormai sono tutti fatti, appaltati, no? Da ditte che preparano questi test. E perché non dovrebbero farlo i professori? Ma i professori, il problema è questo, lei capisce, secondo il CCNL, il contratto nazionale. Fuori dal loro contratto, poi è difficile per i presidi, non potete obbligarli a farlo, insomma. No, poi è chiaro che si creano dei rapporti di buona convivenza, quindi poi alla fine si fa tutto, però da contratto non c'è. Quindi per voi presidi è difficile chiedere a un insegnante di fare una cosa che comunque non sono tenuti a fare, anche perché in questo periodo i professori sono già abbastanza arrabbiati per conto loro. Io direi avvelenati. Ha capito? Professori arrabbiati che mettono dunque a rischio il regolare svolgimento delle prove Invalsi. Ma sentiamo come saranno queste temute prove dalle parole di Roberto Ricci, responsabile del Servizio Nazionale Rilevazioni Invalsi. Difficili come quelle dello scorso anno, secondo qualcuno? No, assolutamente no. Possono stare tranquilli e sono sufficientemente preparati se hanno svolto l'anno scolastico in modo adeguato ad affrontare le prove. Le troveranno meno difficili di quanto si attendono. Perché qualcuno l'anno scorso ha detto che erano troppo difficili, soprattutto quelli delle elementari. Ecco, questo non è però verificato nei fatti, cioè se si va a vedere poi i risultati che in quel caso i bambini, se parliamo delle elementari, hanno raggiunto, cioè il numero di risposte esatte effettivamente date, non c'è riscontro di quello che poi magari può sembrare di primo acchito ai ragazzi. Forse questo si giustifica anche nel fatto che un conto è una prova, diciamo, tradizionale di classe, un conto è una prova standardizzata nazionale che è costruita per misurare una scala di competenze e abilità molto lunga, quindi può essere anche normale che a qualche domanda i ragazzi non sappiano rispondere e quindi magari soprattutto i bambini più piccoli che hanno un approccio verso la scuola molto positivo e quindi anche un desiderio di rispondere correttamente, semplicemente perché non hanno risposto correttamente ad alcune domande, alle quali è assolutamente normale che ciò non avvenga, nella maggior parte dei casi ovviamente li ha portati ecco, a pensare questo. Quest'anno poi c'è il debutto per il test Invalsi anche per le superiori. Una prova che consisterà in che cosa? La prova è una prova di comprensione della lingua scritta, diciamo che per semplicità viene detta prova di italiano, ma in realtà è una comprensione della lingua scritta, e quindi domande di comprensione su testi di diversa tipologia, quindi testi narrativi, testi espositivi, testi argomentativi, testi discontinui, e di riflessione sul funzionamento della lingua, ma più in chiave interpretativa, cioè i presidi fondamentali della grammatica per interpretare un testo, non per classificare non so, gli aggettivi, i pronomi. Ecco, nessuno verrà chiesto questo o quel complemento, ma verrà chiesto la funzione di un determinato elemento al fine della comprensione del testo. Vogliamo ricordare perché vengono effettuate queste prove? Allora, il senso e l'obiettivo di queste prove è fornire al paese, quindi al sistema educativo nel suo complesso a livello aggregato e a livello invece di singola scuola, solo alla singola scuola, e delle informazioni che siano comparabili su prove uguali per tutti e sugli apprendimenti di base, quindi i livelli di apprendimento di base raggiunti da tutti gli studenti di un determinato anno scolastico e di un determinato livello, quindi una determinata classe, e su una base comparabile, perché le prove di classe non lo sono, perché in primo luogo sono tutte diverse e poi in secondo luogo la valutazione dell'insegnante ovviamente e giustamente tiene conto di tanti altri elementi che quindi ne rendono impossibile la comparazione dei risultati. Invece queste prove nascono proprio con questo obiettivo, dire all'intero paese, alle regioni, quali sono i risultati complessivi. Invece ogni scuola accede in modo riservato ed esclusivo, tengo a sottolineare questi due termini, i propri dati sui quali avviare una riflessione sui risultati più interessanti ottenuti per consolidarli e magari se vi sono delle aree di intervento nei quali consolidare magari dei risultati non pienamente soddisfacenti. Nota dolente, molti insegnanti, molte scuole stanno tentando di boicottare la prova Invalsi perché dicono è un telequiz, non è così che si valutano gli studenti, non è così che si valutano gli insegnanti, perché in realtà temono anche che in questo modo si arrivi ad una valutazione dello stesso insegnante. Allora cominciamo da quest'ultimo punto dove ci sono delle evidenti incongruenze. Allora, le prove non servono per valutare gli insegnanti, in primo luogo perché non è nel disegno della direttiva triennale, ma in secondo luogo perché non sono nemmeno in grado di farlo, ma in terzo luogo ancora queste prove afferiscono soltanto a due grandi ambiti diciamo formativi che sono l'italiano e la matematica, quindi ne rimarrebbero poi esclusi tutti gli altri e quindi sarebbe anche ovviamente un non senso. E poi i livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti sono il frutto della collaborazione e del lavoro di tanti insegnanti. Sono concreto, un buon risultato al termine della seconda superiore non è l'esito soltanto del buon lavoro dell'insegnante di seconda superiore, ma sicuramente viene da molto lontano o comunque da più lontano, e soprattutto a questo vi hanno concorso anche altri docenti, perché la comprensione della lingua non è di appannaggio esclusivo del docente di italiano, pur avendo questi ovviamente un ruolo determinante. Prima considerazione, le prove non sono un telequiz, se diciamo in modo come dire libero da pregiudizi si ha la volontà e la pazienza di accedere al sito, guardare le prove utilizzate negli anni scorsi per le scuole del primo ciclo, quindi intendo elementari e medie, si vede esattamente che le prove non sono affatto costruite in questo modo, ma soprattutto, cosa molto importante, le prove nascono da dei quadri di riferimento che sono pubblici o che chiunque li può scaricare, dove viene detto che cosa le prove valutano e che cosa non valutano, e soprattutto chiariscono, se c'è la volontà di leggerlo, che la misurazione tramite le prove standardizzate sui livelli di apprendimento di base non è in concorrenza, in contraddizione rispetto alla valutazione del docente, che ovviamente tiene conto di tanti altri aspetti, e questo è auspicabile che continui ad essere così, ma quello che deve essere chiaro è che queste prove non sono delle rilevazioni fatte sulla scuola, ma sono rilevazioni fatte per la scuola, e la richiesta comprensibile e lodevole, proprio perché testimonia un interesse professionale dei docenti, è che cosa dobbiamo fare bene per andare bene nelle prove invalsi, o meglio che i nostri ragazzi vadano bene nelle prove invalsi. La risposta è semplicissima: nulla di particolare, basta continuare a far bene scuola e si andrà bene anche nelle prove invalsi. Italia Controluce termina qui, è la seconda edizione anche questa settimana. Siamo su Facebook, su Twitter, siamo naturalmente su radio24.it, sia le trasmissioni, l'archivio e anche questa puntata. Siamo collegabili via mail controluce@radio24.it. Torniamo, lo ricordo, il 9 maggio, che è lunedì, il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, e daremo spazio al mattino ad una intervista del nostro Andrea Ferro a Massimo Coco, il figlio del procuratore Francesco Coco, ucciso lungo le scalinate della salita di Santa Brigida a Genova nel 1976. E poi avremo anche uno speciale di Sabrina Pisu dedicato a Peppino Impastato. Il 9 maggio proprio si ricorda la morte di questo giovane che lottò fino agli ultimi secondi di vita contro la mafia.